il nostro obiettivo, il nostro lavoro che in questi anni abbiamo provato a coltivare attraverso prima delle campagne su questioni specifiche come il salario minimo e il potenziamento di quello che una volta era il reddito di cittadinanza, e aprire una discussione verso le elezioni italiane del 2027 su un'idea di paese forte, un'idea di paese, un'idea di Italia basata sulla giustizia sociale, su una collocazione geopolitica che sia finalmente capace di valorizzare l'emersione di un nuovo mondo multipolare, e che sia un'Italia per la maggioranza sociale di questo paese che ogni mese lavora ma non arriva a fine mese, non di poche lì privilegiate. Questo, noi riteniamo che questa sia una sfida anche per riportare alla partecipazione, al voto, milioni di cittadine e di cittadini che troppo spesso rimangono a casa perché non capiscono la differenza tra centrodestra e centrosinistra. Quali sono le tematiche che verranno trattate nel 22? Partiamo da una prima sessione un po' di analisi di quello che per noi oggi è la situazione del paese, con alcuni dei protagonisti di alcune lotte particolarmente rilevanti, come penso i lavoratori della GKN o i portuali di Livorno. Adesso non voglio citare tutti perché non vorrei, come dire, dimenticarne qualcuno, certo. Però la prima parte è quindi un'analisi su quelli che sono, a nostro parere, i problemi centrali dell'Italia oggi. Come dicevo prima, il principale problema dell'Italia oggi è che chi lavora continua a vedere erosi i propri diritti, lo stato sociale, anche da questa finanziaria, ne esce a pezzi. Praticamente la maggioranza sociale di questo paese viene trasformata in un bancomat da cui si prelevano i soldi necessari per finanziare un folle riarmo in un'idea d'Italia allineata in un'idea di guerra al resto del mondo. E poi la seconda parte un po' di proposta, ragionando, ripeto, su come aprire uno spazio di idee per costruire un'idea d'Italia che sappia fare quello che oggi nessuno in qualche modo riesce a fare, ovvero costruire un progetto di paese che sia in grado di coinvolgere milioni di persone, di farle partecipare, ma soprattutto di cambiare radicalmente un paese che, lo ripeto, nonostante in questi anni sono cambiati tanti governi, non sono cambiati i problemi dell'Italia, che sono sempre gli stessi: salari bassi, scarsa produttività, un'incapacità di affrontare le sfide di questo mondo, transizione ecologica, l'intelligenza artificiale, transizione geopolitica, con autonomia, con intelligenza, con solidarietà, con democrazia.